Nuovo appuntamento con Pio X in occasione del suo centenario, nel percorso anche con il progetto Aurora, che coinvolge molte scuole del territorio per riscoprire la molteplice figura e le molteplici attività di questo pontefice anche prima che diventasse Papa. Con me oggi in studio due docenti dell'Istituto Einaudi, l'ISIS Einaudi di Montebelluna, il professor Agostino Vendramin, docente di lettere, e il professor Giampiero De Bortoli, docente di religione. Benvenuti a entrambi. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Dunque, partiamo, professor Vendramin, dal concreto di questo progetto. Voi, a differenza della settimana scorsa, i colleghi del Collegio Pio X di Treviso, che lavorano solo tra professori, voi invece coinvolgete gli studenti, tre classi in particolare. Sì, coinvolgiamo una quarta geometri, diciamo vecchio indirizzo era geometri, oggi è costruzione e ambiente, e con questa classe lavoriamo su un aspetto, diciamo, legato a Pio X prima che fosse Papa, legato cioè alle meridiane. Abbiamo raccolto un po' di materiale che è stato pubblicato a suo tempo, quindi non ci sono novità, ma è l'approccio un po' nuovo, nel senso che allargano, visto che è un indirizzo tecnico, al discorso della costruzione delle meridiane in generale, e scoprire anche questa passione che aveva il Papa Giuseppe Sarto prima di essere Papa nella costruzione di questi orologi solari, no, che lui ha fatto dove era cappellano, dove era sacerdote. È un aspetto interessante proprio per riscoprire sia una figura un po' lasciata in disparte del Papa Pio X, sia anche uno strumento storico che è stato quello della misurazione del tempo per tanti secoli e che oggi viene anche riscoperto in ville, edifici, palazzi pubblici. E sono anche decorative poi le meridiane, insomma, se, oltre all'ognomone, come si chiama? Esatto, sì, sono decorative e anche interessanti il motto che contengono, che è una riflessione sul tempo, sulla dimensione della vita legata alla morte, quindi si sviluppa un ulteriore approfondimento culturale che ha passiona anche i ragazzi. E loro appunto studiano questi temi di geometria e quindi ovviamente ne sono anche, credo, contenti. Questo per la quarta, poi ci sono due quinte. Poi abbiamo coinvolto due quinte più legate a un discorso di contesto storico ai tempi di Pio X. È il periodo della Belle Époque e però si studia sempre quella, oppure legati al Papa, l'aspetto del modernismo. Noi volevamo anche toccare e vedere più in profondità anche qualche aspetto legato al nostro Papa, visto che ricordiamo il centenario della morte. E quindi è stato interessante, per esempio, scoprire alcuni aspetti di pensieri, di lettere, di encicliche che lui ha scritto, per esempio sulla condizione operaia legata alle associazioni della Germania, con l'enciclica Singulari Quadam, pubblicata nel 1912, e vengono fuori aspetti interessanti che non vengono toccati dai libri di storia, per esempio, no? La sua attenzione alla classe operaia, all'equità dei salari, al diritto allo sciopero e ad altri aspetti legati al suo predecessore Leone XIII, come lui richiama nella stessa enciclica. Insomma, aspetti interessanti, poi quelli di quinta sono chiamati poi anche all'esame di Stato, avranno ulteriori spunti magari per il lavoro individuale. Professor De Bortoli, ovviamente come tutte le scuole, soprattutto per le scuole superiori ma anche le scuole tecniche, il docente di religione è sempre un punto di riferimento, non so se può confermarlo. Per tante cose. Sì, sicuramente. Ma poi, oltre ai ragazzi che si avvalgono di religione, oppure ci sono no, anche quelli che non si avvalgono, e noi abbiamo trovato delle modalità per coinvolgere tutta la scuola, facendo dei progetti che sono entrati nel piano dell'offerta formativa, nel POF, e sono oggetti, progetti che sono di attinenza stretta alle nostre materie, alla crescita dei ragazzi, soprattutto dal punto di vista umano e sociale, e che poi, diciamo, coinvolgono tutti e non solo gli avvalenti. Sì. Se posso citarne uno, certo. Vorrei citare Relazionarsi al Diverso, che è un progetto che adesso è stato adottato anche da altre scuole, ma è stato avviato alle Einaudi una decina di anni fa ed è stato assunto adesso dalla cooperativa Servire, che lo propone anche appunto ad altre realtà. E i ragazzi più grandi, quelli del triennio, viene proposta una relazione, l'attività di relazionarsi con persone diverse in ambienti diversi, facendo esperienza di incontri coinvolgenti che spesso cambiano i ragazzi nel loro modo di pensare, nei pregiudizi e così via. Ad esempio in terza abbiamo l'incontro con disabili e con persone che hanno problemi di tipo psichiatrico, però questi incontri di una giornata intera vengono mediati dal lavoro, cioè lavorano insieme, stanno insieme e danno la possibilità, per così dire, di condividere una giornata, e questo spesso fa fa riflettere i ragazzi. Infatti qualcuno dice: non mi ha fatto capire come nella vita bisogna essere felici partendo dalle piccole cose, da ciò che si ha e da chi ci sta intorno, semplicemente. Quindi i ragazzi vengono a casa positivamente, anche così, trasformati in questo senso, e vedono persone semplici che apparentemente sono persone, diciamo, in disagio, che però nei loro ambienti sanno accoglierti, sanno relazionare con te e sanno mettersi a tuo agio, insomma. Poi vorrei ricordare un progetto per le quarte. Noi abbiamo due progetti. Uno si chiama Il carcere a scuola e la scuola in carcere, un incontro con ex detenuti e con detenuti, perché quando loro vengono in carcere sono ex detenuti, quando noi andiamo in carcere invece incontriamo i detenuti. Ecco, i detenuti della casa di reclusione Due Palazzi di Padova. Si tratta di incontri molto partecipati e coinvolgenti. Dobbiamo dire che i detenuti accettano di raccontare, assieme ad una storia difficile, che è quella del reato che hanno commesso, anche la propria sofferenza. Il dolore che viene manifestato è il dolore per cosa hanno fatto, ma anche per chi hanno coinvolto nella sofferenza, le vittime, ma anche i loro familiari. È importante perché i ragazzi lo percepiscono, vengono comunicate emozioni forti, e si cambia spesso il punto di vista superficiale che porta i ragazzi, ma anche la società in genere, a condanne senza appello. E vorrei dire che in questo modo si impara ad ascoltare, a comprendere, cosa diversa dallo scusare, ascoltare e comprendere, ma che aiuta a imparare anche che cos'è la misericordia, che è uno degli aspetti cristianamente, diciamo, più rilevanti del nostro. Insomma, oltre alla preparazione tecnica, i ragazzi toccate con loro vari aspetti. Torniamo col professor Vendramin al progetto Aurora. Avete dei tempi ovviamente su cui di sì. Consegna, chiaramente la primavera. Con che ritmo ci lavorate o ci lavorano i ragazzi? Dedichiamo un'ora alla settimana per il momento. Adesso abbiamo raccolto diverso materiale, quindi stiamo a un buon punto, diciamo, nel nostro prodotto. Ecco, il prodotto finito potrà essere su carta stampata, su un formato tipo giornale, riproponendo un po' l'attualità di quella che era l'epoca dei tempi di Pio X, e quindi ci interessa anche vedere cosa è successo mentre era Papa il nostro Don Giuseppe Sarto. Per esempio, che c'è il primo Giro d'Italia ciclistico, noi sappiamo che il Papa aveva questa passione per lo sport. Ecco, c'è un libro di cui abbiamo parlato molte volte, sì. Esattamente, e proprio nel 1909 c'è parte il primo Giro d'Italia. Oppure sono tempi legati anche alla figura di Gandhi e alla prima marcia che fa in Sudafrica, protesta silenziosa, non violenta, oppure la scoperta della relatività di Albert Einstein. Ecco, sono personaggi ed eventi legati a questo periodo che si riscoprono assieme alla figura di Pio X. Allora, noi vi auguriamo buon lavoro, un proficuo lavoro, e poi ci vedremo alla fine del progetto Aurora, anche con tutte le altre scuole, per raccontare quello che avrete raccolto. Grazie a tutto l'Istituto Einaudi, ai ragazzi che stanno partecipando a questo percorso, ai professori De Bortoli e Vendramin, e buon anno scolastico. Grazie. Grazie.